Noi quest'anno chiaramente non potremo che portare la lotta contro la guerra per l'uscita del nostro paese dalla guerra globale e quindi è chiaramente la lotta dei lavoratori, quindi la lotta di classe, che è quella che poi ha fatto la differenza anche nelle manifestazioni, le grandi manifestazioni dell'autunno passato. Quindi il 1º maggio noi l'abbiamo intitolato Lotta di classe, sindacato, ecologia, perché c'è la questione ambientale che è una questione centrale anche per i lavoratori, e internazionalismo. In riferimento appunto al fatto che l'uscita dalla guerra globale è una cosa che riguarda tutti i lavoratori di tutto il pianeta, sostanzialmente. Questo è il titolo che abbiamo dato, diciamo, alla giornata. Poi, se vuoi, ti racconto cosa faremo. Sì, infatti volevo chiederti se vuoi spiegarmi il programma. Il programma è questo: ci troveremo come tutti questi ultimi anni alle 9:30 davanti al Teatro Testoni, nella piazzetta davanti al Teatro Testoni, per fare un corteo, perché comunque per noi 1º maggio significa anche stare nelle strade, oltre che, come dire, in qualche modo festeggiare, ragionare appunto sui temi a cui dedichiamo il 1º maggio, e quindi da lì faremo un corteo per le strade del quartiere, della Dolarina, passeremo davanti al comune. E lo concluderemo davanti alle nostre sedi, che prendono tutta, diciamo, la parte finale di via Zampieri. Lì ci saranno dei comizi, hanno già garantito, diciamo, la partecipazione, oltre che un nostro rappresentante, chiaramente sindacale, un rappresentante dei giovani palestinesi, un rappresentante del BESTA, che appunto, come tutti sapete, è quella lotta che ha aperto una stagione di mobilitazione sulle questioni ambientali e contro le politiche anche che sta portando avanti questa giunta di cementificazione della città, e un rappresentante del coordinamento regionale non ATO, perché appunto è sempre collegato alla questione della guerra. Poi ci saranno interventi di lavoratrici, lavoratori, delle altre organizzazioni politiche e sociali che intendono partecipare a quella giornata, cioè un microfono aperto. Dopodiché ci sarà un po' di socialità, chiaramente si mangerà, si berrà qualcosa, ci saranno i lavoratori maghrebini che faranno da mangiare, ci saranno altri lavoratori che faranno altre cose da mangiare, eccetera, eccetera. Poi ci sarà un po' di musica, le poesie, e poi ci sarà Contreras, che è un nostro iscritto, ma è soprattutto un artista cileno, ex profugo cileno, insomma, per capirci, che farà sulle strade, sul marciapiede di Zampieri, darà vita ad un murale, cioè su legno, e che poi sarà collocato in una delle nostre sedi, sempre di via Zampieri. Più o meno sono queste le iniziative che noi faremo quel giorno. Siamo solo tutte e tutti a partecipare.